E adesso che sei qui con me, fra le mie braccia, la mia anima non ha più ferite. Che ci importa del passato, che ci importa di loro, cosa importa di quello che è andato prima di noi. Cuore su cuore e bocca su bocca, stanotte per noi non c'è confine, ma un mare caldo che ci culla sereno al ritmo leggero di onde lontane. E tu non dirmi che domani è un altro giorno, che ci aspetti fuori da qui, da questa stanza. No, tu non dirlo, che la pioggia batte sui vetri e qualcuno per strada già grida, e qualcuno per strada già grida.